Container, l'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Noi tutti conosciamo il GPS, il sistema di localizzazione satellitare che consente di determinare la nostra posizione e che attraverso navigatori, smartphone, palmari è diventato uno strumento di uso quotidiano, ad esempio in mezzo al traffico. Non tutti sanno però che il GPS è nato negli Stati Uniti come mezzo di difesa e di intelligence durante la Guerra Fredda e che è solo uno fra i sistemi di posizionamento globale esistenti. Esiste infatti il sistema GLONASS, russo, il cinese Beidou e a questi si affiancherà a breve anche Galileo, carta di identità europea ma nome italiano. Come italiana è parte della sua tecnologia e della sua equipe. Galileo è un sistema di navigazione e localizzazione satellitare per usi civili capace di una precisione al centimetro e in grado di essere impiegato in più settori, dai trasporti alla finanza, all'energia, alla sicurezza. Avviato nel 2003, nel 2011 Galileo ha iniziato il programma di lancio dei satelliti che sarà completato nel 2019. A pieno regime potrà contare su 30 satelliti posizionati su 3 diverse orbite, offrendo così una precisione e un'affidabilità finora mai raggiunte. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Oggi parleremo di uno strumento che ormai è entrato nelle tasche di tutti gli italiani attraverso gli smartphone di ultima generazione, cioè i navigatori satellitari. Il programma Galileo nasce dalla collaborazione dell'Unione Europea con l'Agenzia Spaziale Europea, l'ESA, per migliorare l'autonomia tecnologica dell'Europa. Non dobbiamo dimenticare infatti che il sistema GPS, come ricordavamo anche nella scheda iniziale, è di proprietà dell'esercito degli Stati Uniti d'America che può quindi degradare il segnale in ogni momento. Scopo del programma è la realizzazione di un sistema di navigazione satellitare capace di fornire un servizio di posizionamento globale affidabile e ad alta precisione per tutti i tipi di applicazioni civili. L'Italia ha un ruolo fondamentale nello sviluppo del programma Galileo attraverso l'Agenzia Spaziale Italiana e tramite il coinvolgimento dell'industria nazionale, in particolare del gruppo Finmeccanica. Di Galileo, del ruolo italiano, delle possibili applicazioni per il mondo dei trasporti, parliamo in compagnia oggi dei nostri ospiti. Vi presento il primo, l'ingegner Luigi Pasquali, direttore del settore spazio di Finmeccanica. Ingegner Pasquali, qual è il contributo italiano a questo progetto così importante per l'Europa e che avrà quindi delle ricadute importanti anche per i cittadini italiani? Il sistema Galileo prevede la realizzazione di 30 satelliti che saranno messi in orbita progressivamente. Al momento ce ne sono già 12 ed è previsto che questo sviluppo di satelliti in orbita prosegua nei prossimi 2 anni. Nei satelliti che sono già stati messi in orbita e che sono oggi in costruzione, una importante componente tecnologica a bordo dei satelliti è sviluppata dall'industria del gruppo Finmeccanica. La cosa più rilevante dal punto di vista della tecnologia e dell'unicità della tecnologia va assegnata sicuramente all'orologio atomico, all'idrogeno, che è un oggetto sviluppato all'interno di Finmeccanica dalla divisione sistemi avionici e spaziali. La misura di posizione e l'accuratezza della misura di posizione di fatto si traduce sul satellite nella misura del riferimento temporale. Questo fa sì che questo orologio atomico, che ha una precisione che, per dirla in modo semplice, è quella di un secondo ogni 3 milioni di anni, garantisca un riferimento assoluto per consentire la alta accuratezza di misura della posizione che è richiesta dai sistemi Galileo. E questo sottolinea anche l'importante ruolo della ricerca in Italia. Forse non tutti conoscevano l'importanza dell'industria aerospaziale italiana, che è invece leader assoluta in Europa attraverso questa ma anche altre applicazioni, delle quali parleremo nel corso della puntata di oggi. E a proposito di applicazioni pratiche, una importante per il mondo dell'autotrasporto sarà quella legata alla piattaforma logistica nazionale. Noi ne parliamo in compagnia del professor Rodolfo De Dominicis, che è il presidente di Wirnet, la società incaricata della realizzazione del sistema di gestione della piattaforma logistica nazionale. Quali saranno le potenzialità di questa piattaforma agganciata appunto ad un sistema così preciso come Galileo? In questo momento la piattaforma nazionale lavora con utilizzando il sistema UMTS, cioè nel senso che noi trasferiamo dati da una centrale strutturata infotelematica a una serie di apparati che sono dislocati a bordo dei camion, ma utilizzando essenzialmente sistemi ordinari di trasmissioni dati via aerea. È chiaro che, diciamo, nel momento in cui fosse disponibile, e ci auguriamo che lo sia prima possibile, un sistema satellitare europeo e quindi in particolare nazionale, ci sarà la possibilità di far evolvere i servizi a un livello talmente alto che a questo punto, diciamo, il sistema diventa veramente il sistema di gestione complessiva della logistica di questo paese. Sono convinto, e l'abbiamo sempre detto, che l'introduzione di Galileo possa fare uno scaling velocissimo sia a livello di diffusione sia a livello di servizi della piattaforma nazionale. La logistica finalmente avrà un governo in un paese in cui c'è un danno derivante dall'inefficienza logistica che vale intorno a 40 miliardi di PIL all'anno. Quindi, diciamo, andiamo nella direzione giusta di poter diventare finalmente un paese ad altissimo profilo. All'avanguardia anche sul fronte della logistica, così come lo siamo già sul fronte aerospaziale. A proposito di questo, ingegner Pasquali, proprio in Italia c'è un centro di controllo di Galileo, al Fucino, vicino Roma. Sicuramente, questo è l'altro ambito importante su cui il gruppo Finmeccanica è impegnato nello sviluppo di Galileo. Il sistema Galileo nella sua interezza, con la copertura globale, è controllato da due centri operativi. Uno è il Fucino, che come sapete è un centro di telespazio e che condivide con l'altro centro che si trova vicino a Monaco di Baviera, in una città che si chiama Berfaffenhofen, la responsabilità di controllare i satelliti in orbita, di controllare l'applicazione del segnale e soprattutto di supportare il funzionamento complessivo del sistema. Un ultimo riferimento va sicuramente fatto per ricordare che a bordo dei satelliti, oltre al MASER che ho già rappresentato per l'importanza che riveste, c'è tanta altra tecnologia sviluppata in Italia, soprattutto dalla società Thales Alenia Space, nostra partecipata, e ci aspettiamo anche che nella nuova generazione di satelliti, nell'ultimo batch che consentirà il raggiungimento del target finale, ci sia un ulteriore contributo e quindi il ruolo dell'industria nazionale cresca. Ingegner Pasquali, siamo in chiusura. Un'ultima domanda sia a lei sia al professor De Dominicis sui tempi. Quando Galileo sarà pienamente operativo? Le ho detto che i satelliti saranno 30. In realtà, per garantire la cosiddetta full operation, cioè il pienamente operativo, ne bastano 24. Oggi ce ne sono in orbita 12. E i lanci che ci porteranno da 12 a 24 sono previsti in parte quest'anno, in parte il prossimo anno. Quindi diciamo che siamo nelle condizioni che nel 2017 avremo la disponibilità di una costellazione già sufficiente per garantire l'operatività. Professor De Dominicis, la piattaforma logistica nazionale, quali sono le evoluzioni di questi ultimi mesi e quando sarà pienamente operativa a supporto del mondo dei trasporti italiano? Ma in generale la piattaforma ormai è completata, abbiamo completamente finito la parte, diciamo, di collaudo e di migrazione della piattaforma presso il cloud del MIT. Quindi in questo momento siamo assolutamente operativi e stiamo aspettando di completare, diciamo, la procedura in project financing per la scelta, diciamo, del gestore, avendo scelto l'idea che possa essere, diciamo, un raggruppamento privato a coinvestire sullo sviluppo della piattaforma stessa e sui servizi. Contemporaneamente però speriamo e auspichiamo che effettivamente per il 2017 si riesca noi stessi a entrare, diciamo, nel mondo del satellite, perché lì a quel punto veramente potremo dare un servizio avanzato non solo ai trasportatori ma a tutti quelli che operano nel settore della logistica e anche alle infrastrutture che sono nodi della logistica del paese.